Unilibera presenta Lucciole nelle tenebre. Buongiorno a tutti, siamo di nuovo qui con Lucciole nelle tenebre, con il nostro consueto appuntamento settimanale. Io sono Pietro. E Francesca. Ciao a tutti. Dunque, l'altra volta vi abbiamo parlato della commissione antimafia, iniziando così il macro tema del mese, che diciamo riguarda la mala politica, quindi i rapporti della politica di fatto con la mafia. Quindi ne abbiamo un sacco da parlare. Sì, infatti ci sarebbe da fare puntate per un anno, però noi ne abbiamo a disposizione solo un mese. Inoltre, la scorsa volta abbiamo già accennato al tema di cui parliamo questa settimana, e infatti questa puntata è incentrata sullo scioglimento del comune di Sedriano, nell'hinterland milanese, primo comune lombardo a essere sciolto per mafia. Sì, è stato sciolto proprio pochissimi giorni fa, il 16 ottobre. Tra l'altro il comune era già stato commissariato l'8 aprile di quest'anno, e finalmente il ministro dell'interno l'ha sciolto per mafia. E poi fra l'altro il sindaco del comune era stato arrestato giusto un anno fa per l'affare Zambetti, che era scoppiato in Lombardia appunto il 10 ottobre. Appunto i capi di imputazione erano la compravendita dei voti, e Celeste era accusato di essere l'intermezzo fra Zambetti e il boss della cosca di Grillo Mancuso, Costantino, presenti sia in Lombardia, nell'hinterland milanese, che in Piemonte, che in Emilia Romagna, a Bologna, quindi qui da noi, e a Parma, quindi da te, la Francesca di Parma. Ma vediamo di fare un attimo, raccontare un po' chi è questo Alfredo Celeste, questo sindaco di Sedriano. Dunque, Alfredo Celeste è stato innanzitutto eletto nel 2009, era un ex socialista, poi è passato al PDL, ed è laureato in teologia. Una persona pia proprio. È una persona molto pia, tant'è che è devoto alla Madonna di Medjugorje, di cui ha una statua a grandezza naturale nell'ufficio. Quindi sì, una persona all'apparenza insospettabile, così devota, che tra l'altro si è sempre schierata contro i matrimoni civili e non l'ha mai voluti celebrare nel comune. E una perla d'uomo proprio. No, dietro questo pio uomo si nascondeva qualcos'altro. E secondo noi è anche significativo quello che è successo in occasione di un concorso che è stato fatto a Sedriano per premiare la creatività femminile. Lasciamo perdere il titolo di questo concorso, su cui le femministe potrebbero scambiarsi. E lui, da bravo devoto uomo, ha deciso di chiamare come testimonial che presenziasse all'evento la carissima, niente po' di meno che la ex consigliera regionale Nicole Minetti, che in quell'anno, proprio in quel periodo, veniva indagata per il Ruby Gate. Coincidenze. Fino ad allora si era mostrata invece un'ottima politica schierata a favore della creatività femminile. E a noi... una grande igienista dentale. Grazie, anche. Grazie tecnico per questo inciso importante. E incisivo. Incisivo, vabbè, le battute tristi. E a noi piacerebbe farvi ascoltare un breve passo dell'intercettazione che è stata fatta in occasione di quel convegno, perché la parte più interessante è il fatto che per l'occasione si stava mobilitando appunto un corteo di donne indignate giustamente per la scelta del sindaco. In questa intercettazione appunto si sente Celeste che chiama Costantino, di cui parlava prima la Francesca, per dirgli insomma di tenere buone queste donne. Sì, presenziare a questo incontro. E inoltre un braccio destro di questi due fantastici ometti è un medico chirurgo pavese che ha il pallino per l'edilizia e si chiama Scalambra. E questo personaggio qua interviene anche durante questo festival sulla creatività femminile a sedare gli animi, nel senso che appunto fa parte della cricca di Costantino, e interviene proprio durante questo concorso molestando due donne, una maestra e una suora, e costringendo la suora a salire sul palco per dare una parvenza religiosa a questo straordinario evento. La suora e la maestra scriveranno pochi giorni dopo una lettera di proteste. Ma adesso sentiamo le intercettazioni che ci sono state tra Celeste e Costantino su appunto il servizio d'ordine, tra virgolette, che doveva avvenire durante questo incontro. Pronto? Genio? Sì. Ciao, come si chiama? Veloce, che ti sento che sei in riunione. Ah, dimmi tutto. Allora, ascolta, domani sera ho bisogno, se è possibile, della tua presenza. Ma per quanto? Domani sera? Sì, sa che ci viene giù la Minetti, no? Ah, domani sera io ci sarò, non c'è problema. Ecco, se porti anche il Massimo, qualche amico, perché sì, i contestatori li affrontiamo, nel senso sempre dialetto. Ci siamo, per preoccupare. Poi, un'altra cosa, dopo me la chiamo io. Di pure a Teresa di venire, perché io poi la voglio presentare come consigliere più giovane, che pur senza esperienza, come dicono tutti, è un consigliere comunale, hai capito? Va bene. E quindi la mettiamo... No, ci siamo, domani sera ci siamo, non c'è problema. Ciao, buona giornata. Ciao. E a Sedriano, oltre appunto alle accuse di voti di scambio, sono successi anche una serie di fatti inquietanti, tra cui quattro auto incendiate, una sparatoria davanti a un bar che aveva all'interno delle slot machine. Inoltre Celeste affida negli ultimi anni a Costantino una serie di lavori sull'edilizia, tra cui il supermercato Bennett, all'interno del quale Costantino riceve in gestione una gelateria, cioè non Costantino direttamente ma uomini suoi, l'amministrazione del verde pubblico, della raccolta differenziata, no, del smaltimento rifiuti e la piattaforma ecologica. E inoltre ricordiamo che nel consiglio comunale appena sciolto c'era anche Teresa Costantino, appunto nel PDL, che è figlia di Eugenio Costantino e la moglie di Scalambra, ed è chiuso il cerchio. Benissimo, vi lasciamo ai Chinese Men con Get Up, e poi intervisteremo Esther Castano, che è la giornalista giovanissima che si è occupata di tutte queste questioni, e sarà molto interessante. Getting up, Chinese man, but what's up? Get up to get down, get up to get down, get up to get down, get up to get down, get up, get up, get up, get up, get down. Fresh coast, so active. What it is? Get up to get down. Get up, get out your lazy lot. Get into your working clothes. Up to your knees in oil and grease with a grindstone to your nose. Get up, get out, and get your stock up. Find a group of chickens, sip, and get the flock drunk. Contribute to the party, treat it like a potluck. You best believe I'm getting up, tomahawk dunk. We gotta suit up, then clock in and go work. Grinding on desire, striking till my toes hurt. It ain't a secret, ain't no need to be so covert. I keep it straight up, most of y'all ain't got no vert. Let's keep it real, we gotta move to keep the wheels rolling. Rocking till our heels swollen, walking till they feel broken. Stopping for no block or obstacle, just like a real Trojan. While y'all swerving faded like you drink banana peel potion. Get off the gravel and just quit the moaning. Cause I am never slipping, homie, y'all be tripping slowly. Why? Y'all the hoarders steady lying in the clutter. It's easy to look up when your mind's in the gutter. Squinting, I admit it. Mind sending, I show my talk. I really, she knowin' we high, we potent. We fly so short and ride shining, he's open. She knowin' that we fly across seas, oceans, overseas, putting it in a preconceived notions. All in East Oakland until my vocal cords crack. Goodness gracious, bar the rubber voice back. Get up, like Cialis in your stuff. Baby, I'm up all night, no Viagra in my cup. Spoil me indeed, cause I desire finer stuff. Knees in oil and grease, tryna find a designer stuff. They quiet like a mime, so my mind's so focused. I'm on my grindstone, in different time zones, notice. Liquor my elixir, I'm where the chicks are. My loons got to their hips, they tryna get up. Allora, siamo di nuovo in onda con Luce nelle Tenebre. Siamo in collegamento con Esther Castano. Grazie al suo lavoro nel giornale Alto Milanese, si sono scoperte molte cose che sono successe nel comune di Sedriano, di cui stiamo appunto parlando in questa puntata, e lei è tra l'altro stata vittima di molte minacce, tra l'altro ha ricevuto proiettili in redazione, le hanno squarciato le gomme della macchina appunto davanti alla redazione stessa, ha ricevuto telefonate minatorie e le querele, che sono sicuramente una delle armi più potenti al giorno d'oggi contro i giornalisti. Ciao Esther. Sì, buonasera a tutti, ciao. Ascolta, noi volevamo partire chiedendoti un po' com'è stata la reazione dei cittadini di Sedriano, nel senso dopo appunto lo scioglimento del comune, perché insomma che la mafia in Lombardia ci sia, che la 'ndrangheta sia diffusa, in parte si comincia a saperlo, però sembra sempre che l'opinione pubblica insomma non riesca ad accettarlo e a comprenderlo fino in fondo. Sì, sembra sempre che sia un problema ad altri, quindi purtroppo anche a Sedriano ci scontriamo con questa realtà, il fatto che appunto il comune è stato sciolto per mafia, primo comune lombardo, quindi in tutta la Lombardia, il primo caso, e la cittadinanza in parte ha reagito scendendo in piazza in una manifestazione che si è svolta pochi giorni dopo lo scioglimento del comune per mafia e del 16 ottobre. La cittadinanza è scesa in piazza insieme a molte associazioni sul territorio, ecco, 300 persone in totale, quindi questa manifestazione non è stata del tutto partecipata da insomma una grande fascia di pubblico. Purtroppo è un peccato perché appunto Sedriano in parte sta reagendo, i cittadini si sono resi conto da chi è stato governato il proprio paese, già se ne erano resi conto un anno fa, esattamente un anno fa, il primo cittadino Alfredo Celeste era stato arrestato per corruzione, assieme a lui il padre di una giovane consigliera comunale con l'accusa di essere un presunto boss dell'andrangheta e il marito di un'altra consigliera comunale con l'accusa di essere un presunto collettore di voti. Quindi diciamo che già esattamente un anno fa, nell'ottobre 2012, lo scenario politico amministrativo del paese era dei più inquietanti, un paese che tra l'altro ha più o meno 11.000 abitanti nell'Interland di Milano, in quella zona definita tranquilla dai più, in cui appunto abbiamo una bella piazza, il paese è piacevole anche da vivere apparentemente, eppure all'interno del consiglio comunale si celava una classe di potere dedita al malaffare. Tant'è che con lo scioglimento del consiglio comunale tutti si sono resi conto in quale situazione il comune versava. Alcuni cittadini sono scesi in piazza, hanno manifestato il proprio ribrezzo contro questa classe politica, chiedendo le dimissioni del sindaco. Certo è che facendo un giro di domande fra i cittadini sedrianesi, molti sono quelli che dicono che tanto la politica è tutto uguale, quindi se lo aspettavano che qualcosa di marcio accadeva, ma che non avrebbero nessun problema nel rivotare nuovamente sindaco Alfredo Celeste se si dovesse ricandidare in una prossima tornata elettorale. Quindi abbiamo chi si è reso conto del marcio esistente e chi invece ancora pensa che sia un attacco della magistratura e una mossa dei giornali della prefettura. Questo è dovuto soprattutto, a mio parere, anche per la scarsa informazione presente sul territorio e anche per una vera e propria disinformazione che lo stesso comune ha fatto mediante il suo addetto stampa. Ecco, ma hai citato appunto il problema della disinformazione e tu sei stata insieme al tuo giornale probabilmente uno dei pochi esempi che diciamo si è opposto effettivamente alla logica del generale e ha denunciato quello che succedeva. Ecco, secondo te c'è un problema proprio di informazione in Italia e quali sono appunto i problemi per un giornalista al giorno d'oggi, per appunto un giornalista d'inchiesta che vuole denunciare queste cose? In Italia esiste un enorme problema che riguarda la disinformazione e l'informazione. Nel caso di Sedriano è un paese di modeste dimensioni e come già prime indagini in corso in Lombardia e come quest'ultima che ha portato all'arresto anche dell'ex assessore alla casa Domenico Zambetti, ecco, capiamo che l'andrangheta riesce a infiltrarsi nei comuni di medie e piccole dimensioni, anche perché la stampa nei comuni di piccole e medie dimensioni è assente oppure soggetta al volere del primo cittadino. Quindi abbiamo veri e propri giornalisti, colleghi al soldo del politico di turno, persone che si svendono per pochi euro a pezzo per poi in realtà disinformare la cittadinanza. Il caso specifico di Sedriano, io e la mia redazione arriviamo in questo piccolo paese di provincia nell'ottobre 2011. Ottobre 2011 che è anche la nascita del nostro giornale. Il direttore Silvio Mattioni decide di creare un nuovo giornale con l'intento di fare un giornale d'inchiesta. Tant'è che appunto incominciamo a scrivere su Sedriano e i primi articoli seguono immediatamente delle querele del tutto pretestuose da parte del primo cittadino, perché avevamo insomma capito che qualcosa non andava in questo paese, avevamo capito che sotto il suo ruolo di governante, di politico, si celava qualcosa di oscuro, tanto che poi appunto dopo un anno di inchiesta scattarono gli arresti. E il quadro di potere che avevamo delineato sui nostri articoli e per cui abbiamo preso delle querele si è autenticato ed è stato testimoniato dall'indagine della magistratura. Purtroppo la stampa, il problema della stampa nazionale a mio avviso è che l'attenzione viene attirata quasi solo ed esclusivamente quando c'è un fatto eclatante, quindi a Sedriano si è sciolto il Consiglio Comunale per Mafia e in quel medesimo giorno tutta la stampa nazionale è stata attirata da questo fatto di cronaca. Benissimo, va bene, ottimo, quindi abbiamo avuto il sostegno di giornalisti e di testate riconosciute a livello nazionale. Poi però c'è il vuoto, quindi c'è il vuoto ed è difficile lavorare in questo vuoto, ed è difficile perché tu rimani solo in un comune a scrivere e Sedriano è un piccolo paese, quindi tu non scrivi di un sindaco o di un politico di una grande metropoli, ma scrivi spesso sul tuo vicino di casa, su persone che incontri quotidianamente quando vai a fare la spesa, quando vai a prendere il treno, e quindi questo è la difficoltà di fare cronaca locale. Cronaca locale, poi c'è un altro problema, il problema del precariato. Scontiamo questo problema noi sulla pelle tutti i giorni nei cronisti di provincia, cronisti precari. Poi tra l'altro vorrei anche ricordare che la mia redazione, dopo essere stata soggetta di dure minacce, non solo querele pretestuose ma anche fatti più spiacevoli, come avete ben anticipato voi prima, le gomme sparsate della macchina del direttore piuttosto che un proiettile con gli auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo, ecco, nel dicembre del 2012, quindi il dicembre scorso, la casa editrice ha deciso di chiuderci le pubblicazioni. Quindi dopo un anno e mezzo di inchiesta, di querele, la casa editrice ha deciso di abbandonarci, letteralmente abbandonarci. Però appunto abbiamo preso la decisione di uscire allo stesso in edicola, quindi noi siamo in edicola ogni venerdì mattina, continuiamo a fare il nostro lavoro, nonostante l'isolamento da parte degli altri giornali locali, nonostante le querele pretestuose, noi continuiamo ad uscire in edicola perché il territorio è vuoto, è privo di organi di informazione e l'informazione, abbiamo visto, ha un ruolo assolutamente fondamentale quando l'andrangheta cerca di infiltrarsi nei consigli comunali, anzi è già infiltrata. L'informazione può veramente avere un ruolo fondamentale anche ben prima che ci siano gli arresti da parte della magistratura. Va bene, Esther, il nostro diciamo grazie è sentitissimo e insomma per quanto può contare ti incoraggiamo a continuare perché davvero credo che siano le persone come te che poi rappresentano il bene di questo paese. Grazie mille, Esther. Grazie a voi, buona continuazione. Toda menina baiana tem um santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá. Que Deus dê. Que Deus dá. Deus entendeu de dar a primazia pro bem pro mal, primeira mão na Bahia. Primeira missa, primeiro índio abatido também. Que Deus dê. Que Deus entendeu de dar toda a magia pro bem pro mal, primeiro chão na Bahia. Primeiro carnaval, primeiro velório. Deus dê. Ah, ah, ah, ah. Que Deus deu. Oh, oh, oh. Que Deus dá. Ah, ah, ah, ah. Que Deus deu. Oh, oh, oh. Que Deus dá. Ah, ah, ah. Que Deus deu. Oh, oh, oh. Que Deus dá. Ah, ah, ah. Que Deus deu. Oh, oh, oh. Que Deus dá. Toda menina baiana tem um santo que Deus dá. Toda Toda menina baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeitos também que Deus dá. Primeira missa, primeiro índio abatido também, que Deus deu. Deus entendeu de dar toda a magia. Do bem pro mal, primeiro chão na Bahia. Primeiro carnaval, primeiro pelourinho também, que Deus deu. E prima della nostra consueta rubrica Buffie, vi introduco un appuntamento che ci sarà la prossima settimana, il 13 novembre. Si conclude il percorso sulla bellezza con una mostra itinerante e una conferenza di Pippo Ciorra, major creator del Maxi e professore di architettura a Camerino, che chiuderà in bellezza appunto il progetto Libera la Bellezza, perché ormai con l'incisivo mi ero sotterrata e adesso facciamo il resto. Allora, oggi per l'appuntamento Buffier, la nostra consueta rubrica che chiude il programma, in realtà volevamo fare una dedica a Lou Reed, che ahimè ci ha lasciato il 27 ottobre scorso. Insomma, Lou Reed lo conoscete tutti, è stato uno dei più grandi artisti della storia del rock, possiamo dire rock alternativo americano. E era nato nel 42, forse era uno di quei musicisti che sarebbe dovuto morire da giovane per i continui abusi di droghe che ha fatto per tutta la sua vita, e però è morto alla veneranda età di 71 anni. Insomma, Lou Reed è stato un artista sicuramente poliedrico e versatile. Ha iniziato la sua carriera coi Velvet, che hanno fatto sicuramente la storia della musica, con pezzi come Perfect Day, Sunday Morning, Sweet Jane, e tra l'altro alla corte di Andy Warhol, e poi ha avuto anche un'interessante carriera da solista, anche se personalmente trovo l'ultimo album coi Metallica insopportabile. Però insomma, sicuramente è un artista a cui dobbiamo molto, a cui io sono molto legato tra l'altro, e il pezzo che vi faremo sentire alla fine, che è Take a Walk on the Wild Side, secondo me è davvero un inno autobiografico, forse a scoprire il nostro lato selvaggio, e quindi a non vivere nel conformismo, ma appunto a darci a spingerci oltre, a spingerci nel lato selvaggio, come lo chiama lui nella canzone. Tra l'altro Lou Reed da piccolo aveva subito anche l'elettroshock, perché era accusato di bisessualità, per farvi capire il mondo in cui viveva. Quindi sicuramente il suo anelito verso la libertà l'ha sempre sentito molto forte, e si sente nelle sue canzoni. Dunque vi lasciamo con Take a Walk on the Wild Side, un omaggio al grande Lou Reed che purtroppo ci ha lasciato. Ciao a tutti. Ciao. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, "Hey, babe, take a walk on the wild side.